titolo dell'incontro di oggi era dal carcere punitivo, l'argomento, il tema era dal carcere punitivo a quello premiale. Va bene, allora grazie mille e grazie insomma, a tutti come al solito, come la settimana scorsa, di più anche questa settimana. Oggi appunto inizia, facciamo la seconda parte della presentazione del libro. Nella scorsa abbiamo parlato principalmente delle lettere, che alla fine sono le lettere dal carcere, le lettere pubblicate dal collettivo di Olga, che sono proprio la materia viva del libro, perché appunto è il materiale principale con cui questo libro è stato pensato. Olga, per chi non conoscesse Olga, è un collettivo che si occupa, fa lotta contro il carcere e dal 2005 a oggi continua appunto a fare varie iniziative. Tra le cose pubblica un opuscolo nel quale sono contenute varie lettere che ci scrivono detenuti un po' da tutta Italia. E queste lettere sono quelle che poi ho preso, in questo caso, per questo libro, ho preso tutte le lettere che andavano dal 2006 al 2021, quindi no, sono diversi anni di lettere raccontate, che insomma ci raccontano un po' come il carcere di oggi, da una prospettiva di detenuti in lotta, o comunque con una postura critica nei confronti della direzione del carcere, con delle lotte in corso, sia individuali sia collettive. La cosa che ho cercato di fare, però, non è tanto fare un'antropologia del detenuto, anche perché lo dicevo nella presentazione della volta scorsa, io in carcere non ci sono mai stato. Una certa, secondo me, profondità di vissuto, di quello che è stare in carcere, secondo me è meglio che la faccia qualcuno che in carcere c'è stato. Quello che ho cercato di fare io invece era stato proprio raccogliere tutte queste testimonianze che sono un po' il risultato lo scontro di questi detenuti nei confronti del potere carcerario, se si vuole, e il risultato, che sono anche il risultato però appunto di un incontro, quindi di un modo di pensare. Insomma, Olga, il collettivo che scrive, supporta, chiede che si racconti, chi vuole appunto denunciare, testimoniare quelle che sono le loro lotte, di farlo. Quello che ho fatto quindi nel libro, attraverso queste lettere qua, è un po' uno studio di, io lo chiamo governamentalità, in pratica è le strategie e le logiche del carcere che ha sviluppato, che sono presenti, che si trovano nel carcere di oggi, che valgono soprattutto per le persone che un po' alzano la testa, quantomeno una postura critica. E perché credo che sia particolarmente importante guardare quello? Perché spesso proprio, sono proprio le persone che alzano la testa le prime che subiscono poi le strategie anche repressive dello Stato del carcere. Quelle che studiamo oggi, allora, sarà un approfondimento sulla governamentalità, che in parole diciamo povere sono un po' come il bastone e la carota, il divideti impera, per dirlo in poche parole, ma in pratica a spiegarlo c'è voluto il libro, quindi insomma non è neanche così di poco conto. A volte si fa, dice, no, sì, basta una carota, però anche solo spiegare quella roba lì, secondo me è proprio importante. Questo discorso sarebbe più completo se si parlasse anche della differenziazione, che poi in realtà è la ragione più a monte che rende possibile il fatto che un detenuto si decide di premiarlo o punirlo, ma per questo faremo una presentazione a parte, perché merita proprio una digressione più storica, perché è la differenziazione delle origini un po' più vecchie, almeno io nel libro la faccio ricondurre agli anni 70 e vedo poi approfonditi dei processi che vengono dagli anni 70 a oggi, ma questo appunto sarà materia della prossima presentazione. Oggi parliamo proprio di premio e di punizione, e lo facciamo in due modi. Uno, guardiamo un po' le logiche, i discorsi, quello che rendono possibile, quindi tipo l'armamentario giuridico, ma anche un po', non sono un avvocato, ma insomma comunque raccontato dai detenuti, ma anche quello insomma che sono i discorsi che rendono possibile certi spazi del carcere e la materialità di questi spazi, perché materialità e discorsi si compenetrano, e se abbiamo il 41 bis è perché esiste per esempio il diritto penale del nemico, cioè tu vuoi creare un nemico e poi dopo incredibilmente, non c'è da stupirsi, ci sono dei regimi del nemico. E una cosa giustifica l'altra, anzi, sono proprio due discorsi che si rinforzano l'uno con l'altro. E, Allora, cominciamo dal carcere più duro, poi dopo vado al carcere più soft, quello premiale, poi appunto parleremo della premialità. Allora, rispetto al diritto penale del nemico, ovviamente io non ho inventato niente, non è un concetto che ho inventato io, uno dei libri più recenti che è uscito che parla di diritto penale del nemico è di Caliza, bellissimo libro sull'ergastolo ostativo, appunto il diritto penale del nemico, parte da un discorso, di nuovo anche lui non ha inventato niente, quello che l'ha inventato è di un certo Jacobs, che è un criminologo, era un criminologo, non so se è morto, era un criminologo che negli anni 80 diceva qualcosa del tipo: c'è un diritto penale per il cittadino e poi c'è un diritto penale per il nemico. Quindi il diritto penale del nemico deve essere diverso da quello del cittadino. Per questo nemico, insomma, non è più previsto un trattamento, una rieducazione, un percorso all'interno del carcere, ma valgono altre regole. La prima roba, soprattutto più importante, è l'incapacitazione del nemico nel momento in cui è un nemico. Perché? Perché proprio perché è nemico, l'incapacitazione è giustificata. Noi in Italia abbiamo un sacco di esempi di questa roba qui, perché abbiamo fatto anche scuola, se si vuole, di questo. Lui parlava negli anni 80, in Italia negli anni 80 arrivava un periodo di repressione grandissima, cominciava alla fine degli anni 70, ma insomma l'abbiamo vista, abbiamo visto tutto un armamentario per la repressione della lotta armata, per la repressione della mafia, più avanti per il terrorismo islamico. La cosa interessante è che appunto il diritto penale del nemico in qualche modo si occupa di creare anche dei fenomeni criminali che sono anche che sono successivi, cioè c'è una successione di fenomeni criminali che ritornano e che mantengono ogni volta un po' una guisa che è un po' sempre la stessa, cioè quella di costruire una guisa associativa. Una galassia attraverso la quale una serie di persone fanno reati, tutte all'interno appunto di questa unica galassia che dà una matrice che giustifica il fatto che loro sono un fenomeno criminale che deve essere combattuto. Esempi di questo tipo qua ce ne sono diversi, si trova proprio si può dire un armamentario anche giuridico a supporto di questi discorsi che non sono campati per aria. Cioè, l'articolo 270 che prevede appunto tutto quello che è la materia insomma di reati legati al terrorismo, in una parte di questo articolo 270, di nuovo io non sono un avvocato, non sono qua tanto per entrare nel tecnicismo, però è una sfumatura che secondo me è molto interessante, c'è l'articolo 6 che dice sostanzialmente quello che è. Cioè, compete la questione del terrorismo anche il dirigere un'associazione con una finalità di terrorismo, senza che ci siano di fatto dei reati in sé per sé. Quindi, in qualche modo, quello che si dice poi in maniera ricorsiva è che spesso ci sono dei processi proprio alle intenzioni di queste associazioni. E questa è una roba molto pericolosa, perché uno, perché spesso e volentieri uno può essere indagato, perseguito, eccetera, per le intenzioni. Dall'altro, l'altra cosa interessante e molto pericolosa è il discorso che diversi reati, una volta che si decide che c'è un'associazione, una serie di membri di questa associazione, i reati vengono fatti afferire a questa presunta associazione, anche se non sono direttamente, cioè non c'entrano veramente con, o meglio, secondo loro c'entrano, ma intuitivo, cioè, vi faccio un esempio, non direste che c'entrerebbero con quelle finalità a stampo terroristico, in alcuni casi, per esempio, anche la scritta, per esempio, una scritta sui muri, scritte sui muri hanno fatto comunque giustificato, hanno, come dire, sono state fatte ricondurre a delle associazioni che avevano delle finalità terroristiche. Oppure un altro tema classico, e questo per esempio è quello che fa giustificare il rinnovo del 41 bis a tantissimi compagni, che stanno in 41 bis, parliamo anche di questo, la solidarietà di compagni fuori dal carcere che arriva per posta, per iniziative, eccetera, viene considerata come il proseguimento del mantenimento dei contatti con l'esterno e quindi dell'associazione che in qualche modo resta viva e quindi mantiene la persona dentro, mantiene la sua pericolosità sociale. E questa è un'altra roba assolutamente pratica realmente, cioè che esiste proprio e che ha proprio a che fare con il diritto penale del nemico. Insomma, quello che poi sembra, anche guardando appunto questi piccoli esempi, è come in qualche modo lo Stato riesca in qualche modo a, dice di combattere il terrorismo, ma di fatto in realtà sembra più che lo produca. in qualche modo, che lo produca, che lo utilizzi e che utilizzi appunto questi fenomeni per giustificare poi tutta una serie di misure che vediamo. Per esempio, altri esempi che secondo me sono stati molto forti in questi anni, raccontati anche nelle lettere, durante il Covid, che cosa succede? A un certo punto lo Stato non è in grado di garantire all'interno delle carceri la sopravvivenza delle persone detenute perché c'era un'epidemia e in moltissimi, tra l'altro, sentiva la pressione che in tanti altri Stati, per esempio, siccome c'era sovraffollamento, liberavano i detenuti. Parallelamente a questo momento, a questa pressione per la liberazione dei detenuti, che cosa succede? Esce fuori questo articolone che 376 bosnofiosi verranno liberati per la questione Covid e quindi il panico generale. Perché? Perché in realtà la potenza di questo diritto penale del nemico, di questo racconto che, per cui anche il giornalismo ha un ruolo fondamentale, è quello appunto di ritirare fuori questi mostri che risbucano ogni volta, perché anche se passano gli anni l'emergenza mafiosa si sa esiste ancora, ma nel 92 aveva una forma, oggi ne ha tutt'altra, però ecco che risbucano come niente, così come quando ci sono state sempre le rivolte per il Covid, che all'inizio sono state subito derubricate a sono state organizzate dai mafiosi, dalle organizzazioni criminali. C'è stato questo piccolo momento in cui si è lanciata sta roba, perché comunque funziona sempre buttare lì quel tema lì. Alla fine di tutto, di quei 376 detenuti sono usciti in due. Tra l'altro solo tre erano in 41 bis e la metà di loro era pure in attesa di giudizio, quindi va a vedere pure se poi sono stati pure perseguiti. Però questo basta, cioè il tema è basta e avanza a raccontarla questa storia del nemico, perché è sempre fuori. La stessa roba era venuta a fare col funerale di Cutolo, hanno fatto tutta una... c'è stata tutta una processione, la notte fonda da Parma, partono camionette che da Parma vanno a Ottaviano, chiamano poche ore prima il prete, il cappellano che doveva tenere la funzione del funerale, i familiari hanno potuto toccare, no, non hanno potuto toccare Cutolo, ma hanno potuto stare vicino a lui solo 5 minuti, tutto questo appunto raccontato, immaginatevi in una guisa, come dire, cioè, se non è mostrificazione questa e comunque come questa produca, no? Valore per il fenomeno criminale, quello della mafia, è notevole. E poi ci ritroviamo a parlare di questo e poi queste cose qua hanno poi un ritorno materiale. Esiste il 41 bis, è uno degli spazi che ho approfondito oggi. Ho pensato per questa presentazione di parlare più del 41 bis che per esempio dell'alta sicurezza, perché per l'alta sicurezza magari ne parliamo nella prossima presentazione. 41 bis l'abbiamo un po' conosciuto tutti attraverso, in particolare attraverso le lotte di Alfredo, lo sciopero della fame, le mobilitazioni che ci sono state in solidarietà a lui e poi appunto che si sono estese proprio per una chiusura, per la richiesta insomma di chiudere il 41 bis e tutto. Con Olga ci siamo occupati in realtà di 41 bis anche con qualcuno qua presente della campagna di Pagine contro la tortura, che in realtà era un'altra campagna che già portava la questione del 41 bis e portava una serie di questioni. L'ho citata perché poi dopo ci ritorniamo. Il tema del 41 bis ricorda quello che vi dicevo prima, comunque è quello che volevo raccontarvi oggi. È la storia di un regime che nasce in maniera assolutamente emergenziale, inizialmente semplicemente previsto come misura della legge Gozzini nell'86, che in casi di particolare pericolo nelle sezioni si poteva appunto superare insomma l'ordinamento ordinario. Quello che però succede nel 92 è che dopo il 41 bis diventa quello che conosciamo noi, che è quello che è della detenzione di inizialmente persone per reati legati a matrice mafiosa e ci finiscono 498 persone, più o meno nei primi anni abbiamo 498 persone, ma quello che succede è che a un certo punto si estende questo 41 bis. E si estende quando? Non tanto durante l'emergenza, si estende dopo, cioè nasce come misura emergenziale, nasce come decreto legge che viene rinnovato frequentemente, deve essere rinnovato il decreto, non è legge, di volta in volta, fino al 2002, periodo per la quale quell'emergenza mafiosa, quel periodo di violenza e di quel tipo di violenza, insomma, visibile, e anche quell'instabilità politica di quel periodo lì viene in qualche modo meno, aumenta il numero dei detenuti in 41 bis. Questo perché? Perché in qualche modo chi pensa alla repressione in generale ha tendenzialmente delle cattive intenzioni, cioè pensa a degli strumenti che poi possono essere utilizzati anche più avanti, e il 41 bis in qualche modo ce lo racconta, ci dice che prima c'erano 498 detenuti, oggi ne abbiamo 742, ho guardato oggi, chissà se il dato è proprio giusto, però insomma è quasi il doppio delle persone sono al 41 bis quando è venuto meno quel tipo di emergenza lì. E l'estensione non è solo numerica, ma è anche nella varietà del tipo di delle persone che ci finiscono dentro, perché ci finiscono compagni delle nuove Brigate Rosse, e tuttora sono tuttora in carcere da quasi da ormai 20 anni, e ci finisce appunto Alfredo pochi anni fa. Questo per dire cosa? Come infatti questo strumento sia stato esteso anche per diverse categorie di reati. Poi un'altra cosa è il 41 bis degli anni 90 e il 41 bis di oggi, che anche qui ci dice qualcosa di interessante se si guarda come è cambiato proprio negli anni. Cioè il 41 bis degli anni 90 ce lo raccontano nelle lettere, c'è un bellissimo libro, l'avevo citato anche l'altra volta, che è quello di Pasquale De Feo, Le Cayenne Italiane, bellissimo ovviamente per modo di dire, che ci racconta un racconto vivo di quel 41 bis con finte esecuzioni da parte degli agenti di polizia nei confronti dei detenuti, persone legate alla jeep fatte correre, poi fatte strisciare a terra con la jeep che vanno legate ad una corda, pestaggi sistematici negli spostamenti dall'aria, per esempio ad andare al cortile, ogni volta che ti spostavi venivi letteralmente menato e riportato di nuovo, e rimenato quando dovevi tornare, avvelenamento del cibo con urina, detersivi e quant'altro. Quello era un carcere violento, duro, fisico, corporale, profondamente corporale. Ora è tuttora violento, però ha cambiato completamente connotati, cioè è cambiato perché appunto diventando anche legge si è normalizzato, e si è normalizzato però facendo normalizzare anche un certo tipo di violenza. E qua è la cosa di nuovo, la pericolosità, no? Dei nuovi strumenti repressivi che una volta che poi si strutturano sono normalizzati e vanno avanti da soli. E quindi abbiamo un 41 bis che ci dicono, insomma, i vari detenuti, penso a Musumeci per esempio, che ha scritto anche tanto a Olga prima di scrivere i libri, o anche a De Feo stesso, Antonino Faro, tutti i detenuti che hanno scritto tanto sempre del 41 bis dove sono stati, e che ci raccontano di come in realtà ora sia sempre più come un isolamento programmato, proprio un carcere proprio della mente, dove io nel libro faccio riferimento a una circolare, perché anche i detenuti stessi facevano riferimento alla circolare del 2017, che finalmente, tra virgolette ovviamente, armonizza tutti i 41 bis in Italia. Però leggere quella circolare, se uno ci spende del tempo, ti dice ogni aspetto della vita quotidiana del detenuto è proprio scritto, e quindi quello deve essere per ogni detenuto in 41 bis, e quindi hai i pastelli contati, hai un numero di persone con cui puoi fare la socialità che sono sempre tre, è previsto proprio che ci siano le aree riservate, cioè aree che ancora più isolate del 41 bis, situate spesso, cioè sempre sottoterra, dove non puoi vedere neanche la luce. Queste sono cose che anche Alfredo ci ha raccontato, ma che ci sono da un po', dove non puoi nemmeno vedere la luce, dove ogni singolo aspetto di quello che riguarda la tua vita è proprio centellinato, ti centellinano i singoli aspetti della vita. Uno tra tutti, che ci scrivevano in una lettera, per esempio, è lo specchio che ti danno, minuscolo, che puoi utilizzare in quel momento e ogni volta ridare, anche per dare un senso anche del valore che viene dato agli oggetti, perché anche l'oggetto, dare, togliere un oggetto, fa parte di questo centellinamento qui, e che secondo me ha una forza veramente, nella mente, nella psiche di una persona, è incredibile. Poi, se vogliamo parlare Poi tra l'altro lo specchio, insomma, penso una persona che ho conosciuto che era stato dentro molto tempo e diceva, una delle robe più strane che è stato per me è stato rivedermi allo specchio per intero, no? Uno finisce in carcere, non ti vedi mai per intero e poi ti vedi cambiato perché è un altro corpo che sono passati anni e tu non hai mai potuto vedere. Insomma, questo diritto penale del nemico che in qualche modo lo vediamo proprio nella sua materialità e lo vediamo subito dopo il 41 bis, perché il 41 bis serve sicuramente ragion di Stato, lo ripeto, a recidere i rapporti con l'esterno e poi è ben integrato con quello che era l'ergastolo ostativo, in qualche modo c'è. Cioè, è prevista un'incapacitazione fino a che tu in qualche modo tu non sei costretto a collaborare rispetto a quello che è il tuo caso. E fino al 2019 addirittura era proprio automatica questa cosa, cioè tu potevi al massimo essere declassificato dal, declassificato dal 41 bis, ma saresti finito in alta sicurezza dopo il 41 bis con l'ergastolo ostativo, cioè con un carcere a vita. E poi è uscita questa corte di la sentenza della Corte di Cassazione della CEDU, eccetera, e quindi insomma adesso è più soggettivo e quindi devi portare tutta una serie di prove per dimostrare che insomma puoi cominciare un percorso di nuovo premiale, poi questo capitolo 2 della presentazione, e quindi in qualche modo puoi uscire, quantomeno non è una carcerazione vita, ma è una cosa molto ma molto complicata, tanto che ci sono stati dei casi addirittura dove delle persone che potenzialmente sarebbero potuti uscire dall'ergastolo ostativo, uscire dalla condizione dall'ergastolo ostativo non lo possono più fare, per esempio l'inesigibilità, ma questa è materia degli avvocati. Però insomma l'integrazione di questi regimi, quello del 41 bis e quello della dell'ergastolo ostativo ci dà una cifra di come si trova una materialità proprio rispetto a tutto quello che si diceva prima, cioè che valgono delle regole diverse per determinati reati. Poi l'altro tema che approfondisco nel libro è quello della premialità, cioè ovviamente se c'è da incapacitare l'incorreggibile, il correggibile insomma lo si può in qualche modo trattare, e quello che io affronto rispetto a questo fenomeno insomma della rieducazione, del trattamento, è quello che poi in realtà i detenuti spesso raccontano, che è quello della premialità, cioè quali sono sti valori della rieducazione. Alla fine tutta questa faccenda della rieducazione sembra spianarsi sulla semplice logica del premio e della punizione, e quindi in questo caso per quello che riguarda il carcere soft della premialità. Allora, che cos'è sta premialità qua? Quelli che scrivono da dentro dicono sostanzialmente la premialità, i primi diciamo germogli della premialità li vedi con la legge Gozzini. Interessante vedere come la stessa legge unisce premia, credo che la legge Gozzini sia proprio una delle più, cioè proprio emblematiche per questo, che introduce quelli che sono i benefici carcerari. Che cosa sono i benefici carcerari? Il fatto che tu, se hai una buona condotta, ogni 6 mesi hai 45 giorni di uscita anticipata. 45 giorni di uscita anticipata più 45 giorni di uscita anticipata, 6 mesi fanno 90 giorni alla fine dell'anno, che non è proprio niente nel momento in cui sei dentro. Ma questo, faccio una piccola parentesi, il titolo, no, del libro è Non è più il carcere di una volta, no? Non è più il carcere di una volta è proprio un po' una provocazione che tanti detenuti scrivono. Poi avevo parlato anche la settimana scorsa, non è mai il carcere di una volta, nel senso, poi ho scritto il libro, sembrava di aver fatto il carcere di oggi, no? Qualcuno ha detto, no, ma non è neanche più il carcere di una volta di quello che hai scritto tu nel libro, ci scrivevano da dentro, perché è cambiato un'altra volta, c'è stato il Covid, quindi le cose cambiano sempre, evidentemente. Però quello che sicuramente c'è, ed è di grosso, che è cambiato rispetto a quel carcere di una volta, che diciamo che i detenuti fanno riferimento agli anni 70, è che c'è stato un durissimo colpo, l'abbiamo già visto, con l'incapacitazione dell'incorreggibile con 41 bis, ed è chiaro, ma anche nei regimi soft, nei regimi più dove appunto la premialità fa da padrone, perché in qualche modo sembra, racconti dei detenuti, che quella solidarietà che stava tra i detenuti come un pezzo di, come dire, cultura detentiva, come pezzo di condizione, cioè come se facesse parte di una consapevolezza, diciamo, generale dei detenuti che comunque sta in quella situazione lì e quindi comunque una mano che la do, in quanto anche tu detenuto, sia venuta proprio meno. E nel momento in cui questa viene meno, poi ora capirete molto di più perché la premialità è così forte. E questo per chiudere questa parentesi che stavo facendo, una compagna che poi ha scritto una cosa che abbiamo fatto è stato mandare il libro a diversi detenuti, detenute, per avere poi un feedback, un commento, no, sul libro. E Anna Beniamino, una compagna che ci ha scritto, ci ha proprio detto che rispetto a questa cosa qui, no, del dire è cambiato il carcere, oggi dice, beh, perché proprio perché non ci sono tutte quelle lotte, tutta questa premialità, adesso poi la affrontiamo, verrebbe meno nella misura in cui le lotte, in quelle lotte, nel momento in cui ci sono le lotte, che ci sono il sostegno da fuori, che c'è una solidarietà tra i detenuti che è costante. Quella roba lì cambia tutto perché rende non credibile più il percorso che ti offre il carcere, perché dici, ma io voglio di meglio e posso prendermi molto di più di quello che il carcere mi vuole dare. Infatti, poi dopo, questo sarà tema della prossima presentazione, cioè comunque gli anni 70 rappresentano proprio un periodo storico in cui di diritti in carcere non ce ne stavano proprio, l'ultima riforma l'avevamo fatta durante il periodo fascista e tutte le libertà che si sono presi se le sono guadagnate con le lotte. E ora la situazione è proprio al contrario, in cui le libertà che hai sono quelle che ti concedono e che al massimo te le tolgono. E quello è completamente ribaltato e quindi questo fa sì che proprio la premialità, quindi anche solo questi 45 giorni sono troppo importanti per una persona che dice, ma se no che senso ha di starci qua in carcere così recluso? Ci sono, poi questa roba della premialità non è neanche una cosa che c'è solo in Italia, perché c'è un ricercatore in Canada, lo chiamano candy system, sistema delle caramelle, no? Che cos'è? Cioè, te lo racconta come un sistema per il quale tu in carcere ti comporti bene, perché se ti comporti bene guadagni le tue caramelle e in qualche modo hai una possibilità in più di uscire prima. Ma quello che ci dice sempre lui e ce lo dicono pure i detenuti, anzi ce lo dicono anche meglio, è che questo autocontrollo, questo modo di guadagnarsi quella libertà lì, che sono libertà però concesse, vengono date esclusivamente tramite via individuale. E questo cosa produce se non ulteriore individualizzazione? Cioè la parte di solidarietà, la parte di collettività all'interno del tuo percorso dentro non vale più niente, non è più conveniente. Cioè è molto più conveniente farti i fatti tuoi e andare avanti per la tua strada, fare il percorso che ti chiedono di fare, comportarsi bene, eccetera. In questa, diciamo, premialità, cioè della rieducazione appunto, oltre alla premialità, cioè all'interno della premialità, ci sono peraltro dei valori che sono particolarmente problematici, che ce la dicono lunga poi per tutte le volte che poi sentiamo il discorso e no, però la rieducazione in carcere, perché possiamo pure parlarne di questa rieducazione, però appunto nel momento in cui uno, la condotta non è veramente qualcosa che uno va a è qualcosa che viene performata dai detenuti perché in qualche modo c'è una coercizione, c'è una serie di ricatti che ti portano all'autocontrollo, cioè non è che anche se volessimo fare veramente i conti in tasca che non vogliamo fare alla rieducazione, ma che senso ha, no? Questo tipo di logica. Infatti il detenuto tendenzialmente la performa la condotta. In più, tra i valori di questa rieducazione ci sono elementi che sono assolutamente problematici, cioè senza dubbio problematici, come l'essere a disposizione del carcere, l'essere a disposizione della guardia, essere a disposizione della direzione, dove tu che cosa fai? Magari dici, informi la guardia di turno di quello che sta succedendo nella sezione, che magari è un po' scomodo, tieni informato, sei a disposizione. Queste qua sono tutte cose che tendenzialmente in carcere ci sono sempre state, ma che chi lo faceva tendenzialmente badava bene dal farsi vedere. Ora sembra invece raccontato nelle lettere che sia in qualche modo sempre più facile che ci siano delle persone che facciano l'informatore all'interno del carcere, per esempio, e quello è un problema grosso perché se aveva già creato individualizzazione, la concessione dei benefici, questa roba qua crea pure sospetto reciproco tra i detenuti, tra l'altro creando delle situazioni paradossali. Dove per esempio in certi regimi, circuiti, sì, regimi diciamo per esempio la sorveglianza dinamica, dove ci sono le celle aperte per buona parte del giorno, e i detenuti circolano in sezione un po' più libera. Adesso ne stanno chiudendo tantissime perché cambiano ogni tanto poi le politiche, le aprono, le chiudono le carceri un po' in base all'emotività del periodo, ecco. E in questo periodo qua sono un po' più chiuse, però ci sono ancora questi regimi con le celle aperte, e ci sono tanti detenuti che dicono, poi io vedo i detenuti che ogni tanto li vedo, si confidano con le guardie, gli raccontano le storie loro personali, perché che cosa succede? Ma è paradossale. La guardia non è più la persona che ti chiude. Spesso nelle sezioni di sorveglianza dinamica, una roba che ci scriveva Maurizio, tra l'altro, la porta ti si chiude da solo, sei tu che ti chiudi la porta, che è una cosa simbolicamente fortissima. Cioè, non è il girachiavi che arriva, lo chiamavano così, girachiavi, che arriva, ti chiude la chiave e è finita la giornata fuori. Sei tu che sei chiuso, e sei tu che ti chiudi, di nuovo, per il senso di quello che volevo dire, nel momento in cui riproduci tu l'autocontrollo, non ti fidi degli altri detenuti, ci sono detenuti che magari dicono, tanto ormai la guardia non è neanche più quella che mi chiude, non è più il mio diretto nemico. Nella mia vita quotidiana ci metto pure a confidarmi un po', dico due chiacchiere, dico come va la giornata, e diverse persone appunto si prestano a questo tipo di cose. Nel momento in cui salta questa vecchia solidarietà, diciamo, che c'era tra i detenuti. Insomma, abbiamo capito, cioè questi qua sono una serie di valori che emergono, e allora volevo portare un po' di altri esempi che secondo me anche quelli sono sempre importanti, perché appunto rispetto a comprendere che cosa si intende poi per premialità, cioè cosa che devi fare realmente per performare questa disciplina, no, che ti chiedono. Non cito neanche le lettere del libro, ma ce ne sono arrivate di altre proprio in questo periodo che secondo me sono ancora più utili per capire. C'è una persona, per esempio, a Volterra, si chiama Valerio, ci scrive, ci dice: io ho preso 3 diplomi al carcere di Volterra in ragioneria, perché comunque qui non è che puoi far vedere che non fai niente. Siccome qua l'offerta non c'è, io ho dovuto fare il diploma e poi l'ho dovuto rifare e poi l'ho dovuto rifare. Il terzo diploma che faccio. Però se io mi fermo, ora diciamo, c'è questo documento di sintesi, no? Questo rapporto che si fa ogni 6 mesi in cui si valuta il tuo percorso, ti danno un documento negativo, un esito negativo al documento, e quindi non mi danno sti 45 giorni perché io non sto facendo un cazzo. E questo è un problema proprio che si ripercuote, e non vale solo per lui. Ci scriveva in altre lettere più recenti ancora che addirittura un altro in sezione, lui era iscritto all'università, e allo stesso tempo era iscritto anche lui a ragioneria, perché sembra che non si iscrive a ragioneria, qua è un problema. Fa l'università, non passa il diploma, gli tolgono i 45 giorni. E comunque dici, ma scusa, che cosa vuol dire? Cioè, vuol dire addirittura che non solo devo partecipare, ma devo pure, tra l'altro, andare bene. Cioè, di che cosa stiamo parlando? Però questo è una roba relativamente nuova, non è per niente roba nuova, nelle carceri, diciamo, che sono più note per essere premiali. Io penso al carcere di Bollate, non ho un amico io che ora se mi libero a Bollate, lui mi dice, dove sono io, io non posso neanche dire con chi andrò a lavorare, con gli altri detenuti, perché sennò l'altro detenuto sente questa roba qua e va dal educatore a dirgli, ma perché a lui hai dato quel lavoro e a me non l'hai dato? E il tema qui della premialità e degli effetti, no, di quello che fa la premialità, è quello della concorrenza. Cioè, sono così tanti ribaltamenti di senso che poi si crea intorno una concorrenza tra i detenuti, una concorrenza per i posti di lavoro, per lavorare, eccetera. Ovviamente questo, e ti arrivo a un'altra parentesi, questo libro non è un libro che affronta tutti i temi del carcere, tutte le sezioni del carcere. Abbiamo parlato del 41 bis e non abbiamo neanche parlato dell'alta sicurezza, ma me ne occupo. Abbiamo parlato del carcere premiale, sicuramente non vi parlerò di tutto quello che riguarda il carcere, diciamo, per quelli che sono proprio i dimenticati, cioè quelle carceri che sono proprio un po' come magazzini di stranieri, persone che non dovrebbero stare in carcere ma sono lì per reati, però sono legate a questioni di psichiatriche, tossici, tutta gente che tendenzialmente non dovrebbe stare in carcere, tutta gente che non ha né gli strumenti né la possibilità, proprio perché viene veramente parcheggiata fino a fine pena e fino al prossimo reato tendenzialmente, e per appunto reiterando il loro percorso in avanti. Però perché ho parlato di premialità? Adesso poi finiamo questo discorso. Cioè, sto parlando di premialità perché comunque c'è una logica che pure è molto pervasiva e si trova in forme diverse, in diverse sezioni, in diverse carceri, e in qualche modo poi è proprio quella logica che ti permette, secondo me, di capire come, cioè, tutta questa individualizzazione in qualche modo poi si è diffusa e si è riprodotta. E anche per me, secondo me, vabbè, capito per me, questa logica qua della premialità è qualcosa che in realtà la possiamo capire molto bene anche noi da fuori. Perché in realtà parlare della carriera personale e tutto quello che hai da perdere, che comunque dici ho troppo da perdere, quindi preferisco fare delle cose che almeno non sbaglio, così almeno non la pago fino in fondo, o comunque fai quel calcolo lì. Il fatto che questo tipo di scelte nella vita ti renda sempre più individualizzato e quantomeno ti metta veramente un bastone tra le ruote alla solidarietà, secondo me è qualcosa che è molto semplice da comprendere pure nelle nostre vite, ecco. E vi chiudo questa parentesi. Quindi abbiamo proprio quindi quello che vi volevo descrivere, e poi adesso arriviamo verso la fine. Abbiamo questi, vi dicevo prima, ci sono delle sezioni speciali più, si chiamano trattamento avanzato, no? Oppure delle carceri che si chiamano più premiali. Poi ci sono delle carceri più dure, ci sono delle carceri più fanculatori, diciamo, dove veramente la gente viene messa proprio in un magazzino e lasciata lì. Ma tutto questo fa parte di una logica integrata. Cioè, esiste il carcere duro perché se sei incorreggibile, io ti incapacito. Esiste il carcere più soft perché se hai voglia di comportarti bene, io ti offro anche la possibilità di uscire prima. Ci sono sia carceri diverse, e ci sono addirittura carceri con all'interno delle sezioni molto diverse. Cioè, per esempio, c'è il carcere di Opera che ha due reparti, e c'è un reparto di quelli appunto più punitivo. E c'è quello previsto per il trattamento avanzato. Cioè, perché adesso vi offro tutto questo ventaglio più ampio? Perché in realtà tutte queste logiche qua sono proprio da comprendere in maniera integrata. Perché in base proprio, e così funziona la differenziazione, questo sarà un po' lo spoiler anche per la presentazione della volta prossima, la differenziazione funziona proprio in questa maniera, che per ogni categoria, per ogni tipologia di detenuto, offro una logica integrata che ben si concilia a che cosa? Poi al mantenimento dell'ordine interno del carcere, che se può essere mantenuto con il pugno di ferro, lo si fa con il pugno di ferro, e se non si deve fare con il guanto di velluto, perché comunque conviene anche a tutti a volte, lo si fa così. Non è che non manchino momenti di rottura, le abbiamo viste, momenti di rottura, cioè adesso per uscire anche dalla questione della impossibile uscire, verrebbe da dire, allora non si esce da questo sistema qua. Ci sono tantissimi momenti di rottura, poi possiamo anche parlarne in vari momenti, anche più avanti. Ci sono sicuramente dei momenti in cui, per esempio, durante il Covid sono saltati, diciamo, la premialità è credibile nel momento in cui uno ha qualcosa da perdere. Quando uno non ha più niente da perdere, effettivamente questa cosa qua si rompe subito. L'abbiamo visto, lo accennavo prima con la lettera di Anna, quando c'è un movimento fuori, magari storicamente è andato così. Uno non preferisce comportarsi bene in carcere, perché il carcere è veramente un posto dove ragioni per protestare, per fare della lotte ci sono sempre. Sono equilibri semplicemente che si possono rompere da un momento all'altro sulla base di una serie di concause che arrivano. In ogni caso, secondo me, sapere queste logiche qua è una cosa utile anche un po' per comprendere certe dinamiche che poi si ripercuotono sia dentro sia fuori, e che per esempio fanno preferire al detenuto di turno di mettersi in pilota automatico e aspettare fino alla fine della pena e dire almeno esco prima, piuttosto che lottare in quel momento lì, oppure no, quei momenti in cui i detenuti scelgono di fare altro. Questa era un po' la presentazione che avevo pensato per oggi, però se abbiamo domande, come la settimana scorsa, sono. poi sappiamo anche risposta. Ancora meglio. Sì, grazie, ciao, sono Michele. Ma mi chiedeva, è molto bello tra l'altro qualche suggestione di interiorizzazione di meccanismi neoliberisti all'interno. Ma mi chiedevo, in tutto questo, siccome hai parlato un po' di una dialettica tra le persone detenute e le guardie, mi chiedevo le figure altre nel carcere come si pongono rispetto a questo meccanismo di premialità punizione, di educatori, di psicologi, cioè che io immagino, non so come dire, nell'idea di chi ha fatto la legge dovesse essere qualcosa, penso, no, dalla parte della rieducazione del detenuto, ma poi non so se traspare in qualche modo che tipo di pratiche mettono in atto e se riproducono questo sistema, se sono parte della rieducazione di questi meccanismi. Allora, cioè, la questione della rieducazione ovviamente è una questione, cioè, secondo me, molto eterogenea, ma allo stesso tempo diciamo che se c'è una direzione che prevale, dal mio punto di vista, è sempre quella di che tutta una serie di attività previste nel trattamento del carcere, nel trattamento carcerario, poi confluiscono a sempre, vengono sempre erogate un po' con finalità premiali. Quindi, vuoi o non vuoi, tu da operatore in qualche modo devi essere consapevole che quel sistema lì lo riproduci. Cioè, ci sono i detenuti ovviamente che dicono, ah vabbè che bello, comunque il corso di italiano era tanto bello, la persona che le insegnava era bella, comunque era una boccata di ossigeno rispetto alla chiusura generale del carcere, però allo stesso tempo ci sono tutta una serie di robe da considerare. Io nel libro non parlo tanto degli altri, però parlo di me, quando ero studente alla triennale, quindi parliamo di diversi anni fa, facevo il volontario perché, vabbè, di tutor universitario. Che cos'era tutor universitario? Niente. Cioè, c'erano i detenuti che studiavano all'università, iscritti, selezionati ovviamente, che potevano scendere e con me ripassavano le cose dell'università. Io non avevo nessun ruolo, tra l'altro ero veramente, cioè, ero dentro per come stage proprio dell'università, per quello che dicevo, studente del polo universitario della Bicocca, al carcere di Bicocca. E vabbè. E quando io lì sono stato sospeso dopo 2 anni e mezzo che facevo il volontario, perché dicevano tu sei troppo vicino ai detenuti, ma soprattutto perché a un certo punto avevano chiesto di fare una relazione rispetto a come andavano i detenuti, e dici, ma io da persona veramente anche nell'ingenuità che mai che ero chissà che con che profondità di ragionamenti avevo, era forse secondo anno dell'università, nell'ingenuità mia, però che avevo almeno le idee chiare del tipo, io sono qua per fare volontario, perché mai dovrei darti dei commenti per di più individuali sui singoli detenuti, se si sono comportati bene, se sono venuti, se non sono venuti, perché sono iscritti ma non sono venuti, per dare un'idea. E tutto questo poi magari può confluire in quel documento di sintesi che dicevamo prima, perché poi per questo documento di sintesi siede un'equipe. Questa equipe è composta anche dagli operatori, mica adesso non solo dalle guardie, dal direttore, eccetera, ma c'è dentro anche il cappellano, in alcuni casi, per dire. Cioè c'è dentro veramente un po' è di tutto. E tutte comunque potenzialmente hanno la loro voce in capitolo. Un discorso ancora più complicato può essere quello degli operatori sanitari, per esempio. Anche quello è molto complicato. C'è un utilizzo soprattutto delle cooperative, qualcuno che vorrebbe magari raccontarla meglio, poi c'è tutto un utilizzo delle cooperative, vabbè, allora le storie che sappiamo del detenuto, del medico che non deve segnare, cioè non deve denunciare il testaggio di turno, quelle storie un po' le sappiamo, poi io non sono decisamente la persona più adatta per rispondere a quello, però in qualche modo ti do una suggestione rispetto a una persona che faceva il direttore sanitario, che era anche una persona comunque molto consapevole rispetto al lavoro che stava facendo, si è ritrovato nella situazione in cui diceva, io se continuo, allora io posso per come dire compensare il fatto che sto male rispetto alla condizione che è protratta al carcere, cioè che produce dolore, cioè che normalmente in carcere la gente sta male ed è una roba strutturale. Io, se ci metto la mia buona volontà, praticamente vado in burnout perché non ce la posso fare a stare dietro tutte le robe che stanno succedendo. Alla fine di tutto lui ha lasciato, perché ha detto l'alternativa è che mollo e questa roba qua diventa ancora peggio. Quindi o vai in burnout tu, oppure per sentirti meno complice peraltro, oppure sei complice a tua volta. Ovvio che ci sono sempre quelle piccole robe, quei piccoli spazi per cui si fa, magari si può creare dell'affinità, eccetera, però quando si dice che il carcere comunque è strutturalmente violento, si intende proprio che, proprio per come è organizzato, è veramente difficile non riprendere quella violenza lì. E così anche appunto la premialità non riesce a riprodurre, cioè non la riproduci. Mi è venuto un pensiero con una domanda. Pare che appunto parte centrale del tuo discorso sia appunto l'analisi di tutte quelle premialità che diventano appunto dispositivo per isolare le persone e creare più individualismo, eccetera, no? E assolutamente sono d'accordo, è una cosa che possiamo assolutamente vedere anche nel fuori dal carcere, le persone che non hanno fatto l'esperienza carceraria. Che è una deriva un po', forse, non so, storica, problematica dentro e fuori dal carcere, sicuramente dentro il carcere di più che fuori. Mi chiedevo se questo processo è possibile vederlo, ci sono delle tracce giuridiche, cioè è possibile leggerlo attraverso circolari, leggi che chiaramente usano e indirizzano il dispositivo della premialità come. Oppure se è una deriva sociale in generale, quindi come avviene fuori, avviene anche dentro al carcere, un tutt'uno. Beh, allora, lì se uno avesse voglia di spulciare le cose, cioè, scoprirebbe proprio quello. In realtà, cioè, la premialità non è neanche un concetto inventato dal detenuto né dal ricercatore. Cioè, la premialità è un concetto che trovi nelle circolari proprio del DAP. Quindi quello è già... parte della risposta, però io prendo lo spunto, cioè quando pensi a, non so, pensa come si raccontano certe aziende, raccontano loro stesse il percorso previsto dei loro dipendenti, quando parlano di carriera, quando parlano esattamente della stessa roba. Io non ho mai banalmente pensato a come funziona il mercato, il mondo del lavoro. Premi collettivi sono stati sostituiti tutti da premi individuali tendenzialmente, c'è tutto un processo di individualizzazione legato alla carriera. Io ho una premialità collettiva, no? È uno simbolo, credo, per come, anche se appunto non esiste la premialità collettiva, che siano stati bravi allora, oppure siano stati generalmente bene, allora bravi tutti, ci premiamo tutti quanti. Cioè, poi lo diceva anche lui prima, il carcere è un'istituzione ovviamente secolare, ma non è che non risenta del periodo storico nel quale viviamo. Il neoliberismo è impera e trionfa, e quindi il premio, diciamo, è l'altra faccia della medaglia del merito, se si vuole, fuori, no? Quindi la meritocrazia e la premialità fuori, no? E insomma, semplicemente è uno sposare delle cose che sono proprio, sono sia nelle circolari, sia nella mentalità e sia nelle pratiche comuni. Poi detto questo, che ci sia pure un utilizzo arbitrario del fatto che tu, per esempio, vai a teatro, faccio riferimento di nuovo a Voltaire, togli la parte del diploma, vai a teatro o non vai a teatro, quello lì ci metti del tuo. Che però è previsto che il detenuto debba intraprendere un percorso detentivo positivo con le attività interne alla direzione, quello è proprio scritto nello studiato. Quindi diciamo che vanno un po' insieme. Attività che a volte non esistono neanche. Attività che a volte non esistono neanche. Cioè, tu dovresti fare delle cose che non ci sono. Esatto, perché infatti quando parlavamo proprio di Voltaire, avevamo parlato di Bollate, quelli sono i casi in cui le attività sono parte proprio, anzi c'è, cioè, quel mondo alla rovescia che dicevo prima, dove addirittura si fa la gara di chi si ruba il lavoro perché è tutto alla rovescia. Normalmente il carcere X è, magari anche lì ci può essere la concorrenza per il lavoro, ma proprio perché c'è un regime di scarsità di posti di lavoro. Infatti ci scrivono per esempio tanti detenuti che ci dicevano: qua siamo in 30, i posti disponibili sono 5 per lavorare, oppure il turno dello spesino, il turno dello scopino, cioè i lavori, diciamo, interni al carcere, di chi porta il vitto, di chi fa l'ordine della spesa e di chi scopa terra. Sono lavori che ciclicamente vengono dati a turnazione, che però gira che ti gira, spesso sono sempre le stesse persone a farlo. E quindi, cioè, abbiamo regimi diversi di scarsità, di abbondanza, di attività, ma sempre la stessa logica proprio del premio. Oppure, appunto, poi ovviamente ci sono anche quelle carceri dove non c'è proprio un cazzo, cioè a parte appunto il minimo dello scopino, dello spesino, e lì varrebbero altre riflessioni. Però di nuovo, allora lo dicevo anche nella presentazione dell'altra volta, perché non abbiamo, cioè perché non ho scritto niente di quello? Perché comunque sia chi ci scrive ad Olga più spesso si ritrova in altre tipologie di carcere che non proprio quelle lì, quei dimenticatoi che dicevamo prima. Quindi capita a volte che ci dicono, che ci finiscono e ci raccontano poi questi spaccati, però sono sempre molto meno. Cioè, mi riferisco a certe carceri, magari, vabbè, sono sempre queste lettere, ci scriveva un compagno, ci scriveva che era finito al carcere di Cremona, era di Cremona, però il carcere di Cremona è un carcere terribile, un carcere proprio di dimenticati. C'era questa persona che lavorava per Antigone che diceva: ho incontrato una persona al carcere di Cremona che aveva le cimici da letto in testa. Cioè, aveva un video di cimici da letto in testa, vuol dire che questo qua viveva nel letto e non si spostava dal letto e le cimici vivevano lì. Cioè, e quello è un carcere ovviamente dove non hai delle sezioni, soprattutto appunto del carcere, dove non hai neanche non c'è una struttura rispetto a questo tipo di attività e di cose, ma manco di supporto medico, se si vuole, come si deve. Nella normativa è la Gozzini che introduce formalmente questi meccanismi premiali. Per questo diciamo quello che dicevi prima, che la lotta romperebbe gli effetti della premialità perché la zelerebbe su tutti, richiede un atto di generosità individuale e collettiva enorme, che prima non era richiesta, cioè prima tu non avevi questo, e quindi eri rimesso nella, cioè è stata un'invenzione geniale, un'applicazione geniale questo meccanismo che entra nell'ordinamento e che probabilmente forse precede alcuni meccanismi sociali che hanno un po' lì, no? È stato un terreno di sperimentazione che poi è stato esteso e portato fuori. Molte volte succede. Io so di un gruppo di detenuti in AS a Opera che hanno fatto un corso, uno spettacolo teatrale che non c'era, hanno inventato uno spettacolo teatrale per poter fare qualcosa che come dire, potesse essere registrato come un'attività. L'hanno costruito loro e poi dopo mi hanno dato il permesso, l'indicatore, non so, diciamo così, ma nessuno ha detto facciamo neanche il teatro, per dire. No. È vero, ci sono casi individuali, no? Anche individuali, di chi, non so, mi ricordo di chi faceva i mosaici, un po' riconoscono quell'attività lì, che però non fosse stato per lui. Non c'è. E vabbè, quello è tutto l'ambito, e secondo me anche quell'argomento lì è molto interessante, perché di nuovo, quali spazi di libertà o di possibilità o di respiro almeno ti puoi trovare tu una volta che sei dentro in quel sistema lì? E per esempio io pensavo, rispetto a questo, sono delle lettere molto belle che ci ha scritto Claudio Lavazza, che ti dice Cosa vuol dire essere anarchico in carcere oggi, dove hai a disposizione solo gli strumenti che ti dà la borghesia per lottare in quel sistema qui, però lottare e poi lottare come? Lottare proprio con gli strumenti che hai, perché quello che puoi ottenere non è che è niente di rottura veramente, però ci sono tutta una serie di attività che vuoi o non vuoi che ti riconoscano, che non ti riconoscano, perché sono alcune che magari le fai perché ti riconoscono, perché poi dopo ti serve, cioè ti torna anche buono per quello, ma almeno sei stato bene con te stesso durante. Lui per esempio faceva supporto legale alle persone che non ci capivano niente delle loro situazioni giuridiche, per esempio. Persone che fanno, di fatto si mettono a disposizione offrendo un servizio che poi in alcuni casi magari viene pure gestito, viene pure messo, dato a disposizione, quantomeno dà un respiro a te e alla persona che fai uscire, però appunto nell'ambito degli strumenti, tu rischi proprio degli strumenti borghesi che il carcere ti offre, cioè gli strumenti ovviamente che al massimo che sono di riconoscibili, cioè il carcere ti può riconoscere, ma niente che tu puoi prenderti, o niente che tu puoi rompere.